4 mattino. Pensa un po' che io sto raccontando una cazzata alla gente, anche a te. Io non sto bevendo da 2 giorni. Vedi che faccia ciò? Mi sono fatto truccare le labbra. Non ho saliva, parlo impastato, perché io prendo per il culo gli italiani. Dico che digiuno e invece no! Era Marco Pannella, lo avrete riconosciuto quando parli di digiuno. Comunque vada, ti viene in mente lui, digiuno, perché i radicali furono maestri del satyagraha, portarono, elevarono ad arte, a strumento di battaglia politica questa lotta. E oggi che il ministro Delrio si inserisce in un digiuno a rotazione saltando un pasto per chiedere lo ius soli, esplode la polemica. Intanto il primo nodo è il punto sullo ius soli: cresce il fronte del sì, almeno questo ce lo racconta Repubblica. Repubblica da tempo auspica che questa legge sia votata. E allora Goffredo De Marchis, un ampio retroscena, pagina 3, se vi interessa sapere come funziona. In Senato si riaprono i giochi, spunta una lista con 157 sì, i verdiniani, noi ci siamo. Non è finita, come invece aveva detto Angelino Alfano e come a sorpresa aveva confermato Maria Elena Boschi. Più di uno al Senato lavora alla ricerca dei numeri sufficienti per approvare la legge sullo ius soli temperato prima della fine della legislatura. Dentro il PD, nel perimetro dell'alleanza di governo, e anche fuori, perché i voti della coalizione non bastano, questi sforzi sono ora patrimonio comune della task force, che agisce sotto traccia con un elenco di senatori sempre aggiornato. Allora c'è anche un bel tabellone, sono belli i tabelloni, e poi c'è a pagina 2 il pezzo di Vladimiro Polchi: dal digiuno una nuova spinta, 90 parlamentari entrano nella staffetta. Fra questi il ministro Delrio, e su di lui si apre l'ira di Dio, insomma i giornali di destra lo attaccano pesantemente. Allora vai con la carrellata dei titoli e iniziamo dal Sole 24 Ore, che si occupa ancora dei crediti delle banche, imprese contro le nuove regole della BCE. Corriere della Sera: i giudici fermano Barcellona. Corriere tiene l'attenzione, e come vedremo una bella intervista a Iglesias, il leader di Podemos. Il Corriere dello Sport: da 20 anni azzurro dentro, è tutto dedicato alla nazionale, qui comincia l'avventura, perché sapete che adesso l'Italia con la Macedonia non può scherzare, pena l'eliminazione. Allora, l'impeccabile brocado della magnifica Ilaria D'Amico: meglio un corrotto che lo Stato rotto, che ci libera dall'eterno Davigo. Pensate, l'apertura è il pezzo di Giuliano Ferrara dopo il litigio fra Ilaria D'Amico e l'ex PM di Mani Pulite. La Stampa: Catalogna, fuga dalle banche, ci sono sempre di mezzo le banche per paura della secessione. Madrid ferma il voto del Parlamento sull'indipendenza. Bruxelles: se scegliete la separazione non entrerete nell'Unione Europea. Questo è il grande nodo rispetto alla posizione più traballante dei giorni scorsi. E poi un fondo contro l'Appennino, Appennino al bivio, Torino senza un'idea di futuro. Il Fatto: lo stalker graziato da Orlando, come denunciato dal Fatto, la riforma salva i molestatori. L'imputato offre 1500 euro alla vittima, lei rifiuta, ma lui viene assolto comunque. Pugno di Madrid, chiuso il Parlamento catalano, l'editoriale è su Forlano Pisapia. La Verità, una notizia tutta sua, un'apertura di Giacomo Amadori, sapete, inchiestista indefesso, perquisite le aziende dei Renzi. Sequestrati documenti e dati dei computer, la Guardia di Finanza per 9 ore alla holding di famiglia. E 26 e alla collegata Marmodiv. L'indagine riguarda il fallimento di una cooperativa costituita da amici del padre dell'ex premier. E qui il fondo di Belpietro è contro Delrio. Col suo digiuno Delrio rivela i suoi appetiti. Repubblica, ius soli, cresce il fronte del sì. E lo abbiamo già letto, però l'editoriale è diverso, è come ti smacchio l'evasore e i miliardi dall'estero, è un pezzo di Sergio Rizzo, se riusciremo ne daremo un assaggio. Barcellona, la grande fuga alle banche, il Messaggero, e il fondo del nostro Oscar Giannino: l'Ocse striglia l'Italia, pochi laureati nel paese che non investe sui giovani. Siamo l'unica radio che ce l'abbiamo interattivo stamattina, ve lo può leggere e sillabare lui. Libero: Libero, due iniziative, una più stupida dell'altra, sobrietà. Sciopero della fame pro migranti, corteo degli antifascisti da Diporto. E poi il Versus, che è il giornale di Pietro Senaldi spesso applica, i governanti protestano contro se stessi e facci di farina e facci combattono le camicie nere perché già vinte. I travel far and wide. Avvenire, Avvenire, il Papa, ritroviamo la forza della vita. E Francesco parla alla Pontificia Accademia per la Vita rilanciando un umanesimo delle relazioni. Il Fondo riprende l'iniziativa di Francesco Ognibè. Il Giorno cambia tutto e dedica una foto molto bella alle tre scimmiette: non vedo, non sento e non parlo. La rivolta dei portaborse, schiavi dei politici, è il titolone. L'editoriale di Andrea Cangini, il direttore, ha suoi fatti al peggio, protesta in piazza dopo lo scandalo della collega mobbizzata e non pagata, i casi, le storie. La Boldrini, regole da cambiare, stipendi direttamente dalla Camera, come accade in Germania. Ma sono 20 anni che si dice, santo Dio, sono entrato a lavorare nel 90 a Montecitorio, già si diceva questo. Però c'è la prima foto di Federica, la protagonista della storia raccontata alle Iene. Appare anche su altri giornali. Il Tempo continua a battere contro il referendum sull'autonomia. Sapete, a me piacciono le campagne anche se non le condivido. Tu vuoi fa il padano, il fondo di Chioggia. Il referendum dei terroni, diversi chi, Lombardia e Veneto, invocano l'autonomia sbandierando il mito del nord virtuoso, ma tra scandali, evasori e sprechi la verità è che sono tali e quali ai tanto odiati meridionali. Il Giornale, un'altra apertura diversa, questa la indagheremo nella pagina economica. Tassa sugli anziani, sanguisughe, mazzata da 2 miliardi in più di contributi per gli anziani, come si sta trattando della norma sui golf e sulle badanti. Allora, tante cose da leggere oggi, però vorrei partire dalla Catalogna e subito dopo la pubblicità e il meteo torniamo su queste strade. Ciao papà, sei obeso. Mattino. Buonasera, Presidente De Luca. Sono a centinaia di migliaia di milioni per centimetro quadrato. No, il povero Edoardo Vianello non può più cantare la canzone che dice: nel continente nero ci sta un popolo di negri. Ma perché? Perché nel continente nero quel popolo non c'è. Ma guardi, io sono capisco. Tutti sul lungomare a Salerno. Tutti sul lungomare di Salerno, 7:34 minuti, 14 secondi, eccoci qui, 800 24 00 24, preparate il telefono perché fra poco arriva Oscar, e invece subito sms al 349-238-6666, com'è quel numero 02? Eccolo, 02-465-244-92 per i vostri messaggi in segreteria che poi vanno fra i già svegli. Allora, vi dicevamo che c'è questo sciopero che sciopero della fame, e subito Sallusti arrabbiato: chi vuole imporre lo ius soli a colpi di dieta. Del Rio, insomma, e leggo solo un frammento, sta scioperando, si fa per dire, contro se stesso, contro la sua incapacità di ottenere ciò che vuole, contro la manifesta ipocrisia del suo partito, che però si guarda bene dal lasciare. Non ci prenda in giro, scrive Sallusti, giornale pagina 1. Se pensa di risolverla così, con una lavatina di coscienza, vuol dire che il destino di un immigrato neppure per lui vale il posto che occupa e tutti i benefici che questo comporta. Cioè, dice Sallusti, non ti va bene, vuoi la legge? Allora dimettiti. Allora, passiamo alla Catalogna, ci sono altri fondi ovviamente, anche Belpietro è contro Del Rio, anche il Libero ve l'ho detto, ma il problema della Spagna. La fuga alle banche, titola il Messaggero, a pagina 3 c'è un ampio pezzo di Ventura che spiega che si tratta di una fuga dovuta al rischio isolamento. Banco Sabadell ha portato fuori dai confini regionali la sede legale e il governo di Madrid prepara un decreto per facilitare gli esodi. Siamo in uno scenario di preguerra, signori. Il primo a levare le tende, scrive Ventura, il primo a spostare la sede legale ad Alicante per paura della catalexit, con una secca decisione dei vertici dell'istituto, e senza interpellare o far votare gli azionisti è stato il Banco de Sabadell, quinta banca spagnola che da 40 anni aveva la sua base in Catalogna. Decisione che potrebbe anticipare quella della prima banca catalana, terza in Spagna, la Caixa, che sta valutando il trasferimento probabilmente a Mallorca, nelle Baleari. Questo è lo scenario, ma poi c'è la politica. Mentre si preparano i rulli di tamburi e mentre la Corte chiude il Parlamento, quello che avrebbe dovuto convalidare il voto sull'indipendenza, parla Pablo Iglesias. Chi è Manuel Iglesias? Pablo Turrión, 38 anni, è il fondatore di Podemos, che come sapete è la seconda forza della politica spagnola, una forza di sinistra, sui generis è stata paragonata a, che ne so, al movimento di Grillo. Allora, è interessante vedere che nell'intervista a Nicastro, pagina 3 del Corriere, per la prima volta si apre uno spiraglio, perché Iglesias si è schierato con gli indipendentisti, però dice anche: in Catalogna l'85% della popolazione vuole votare, significa metterli tutti fuori legge. In politica si sa come cominciano le cose, ma non come finiscono. Fino ad ora non c'è stato l'incidente irreparabile, ma se si prosegue verso la distruzione dello Statuto di Catalogna e il conflitto fra istituzioni, chi può dire cosa accade? E l'ultima spiaggia? C'è anche, ricordate, ve l'avevo anticipato con Città De Gregorio a questo microfono, la via della mozione di sfiducia a Rajoy. Se Pedro Sanchez del Partito Socialista volesse, i numeri per scalzare il Premier ci sono. PSOE, Podemos, nazionalisti catalani e baschi possono fare una maggioranza di salute pubblica, dipende solo da Sanchez. Penso che sia schiacciato fra la base che vorrebbe avvicinarsi a noi e la vecchia guardia che punta su un governo di grande coalizione con il PP. La secessione si fermerebbe? Per salvare la democrazia spagnola è necessario portare il PP all'opposizione. E questo è molto interessante, perché come vedete, mentre le truppe si spostano, mentre si parla di Catalexit, la via politica che indica il leader di opposizione è un ribaltone, signori. Questa è la situazione in Catalogna, ma secondo me ne vedremo ancora delle belle. Noi abbiamo i nostri problemi con la legge elettorale, non ci si capisce niente, perché l'ultima norma che fa arrabbiare un po' tutti sui giornali è la legge salva cespugli, così la chiama la Verità, però mi sembra giusto. Ecco il trucco per salvare il cespuglio di Alfano, Antonio Ricchio, a pagina 7 della Verità. I cespugli del Parlamento si aggrappano a Maurizio Lupi, porta infatti la firma del coordinatore nazionale di AP l'emendamento al Rosatellum, che mira a salvare i piccoli partitini e a depotenziare chi? Soprattutto il Movimento 5 Stelle. Così dice la proposta vergata dal centrista, rappresentante di una formazione che, stando agli ultimi sondaggi, fatica a raggiungere il 3%. E allora ecco il trucco: se superi il 3% in tre regioni, l'hanno chiamato anche il 3x3, ci scrive Ricchio, e allora puoi riuscire a passare lo sbarramento. Quindi ci sarebbero sbarramenti diversi a seconda se sei equalizzato, se superi il 3x3 in tre regioni, se lo superi da solo in tre a livello nazionale. Un pasticcio senza precedenti. Ma Martirano sul Corriere della Sera, se volete uno scenario ancora più in luce, ci spiega la partita sulla legge elettorale. Martirano è un cronista molto attento a come funzionano i dettagli della politica, questo mi piace. Regge il patto elettorale sulla legge, ma c'è molta tensione sull'emendamento che lui ribattezza salva AP. Oggi sono in arrivo due emendamenti del patto a 4, mamma mia, con tutti questi numeri è veramente difficile. Quello che porta da 3 a 4 le pluricandidature, quindi più candidature civetta, e il 3x3 che abbassa l'asticella dello sbarramento su base nazionale per l'accesso dei partiti al Senato. Basterà raggiungere il 3% in tre regioni. La modifica chiesta da P viene definita una schifezza da Alfredo Dattore di MDP. Noi non siamo una piccola forza, siamo per il 5%. Allora, c'è la Pisa Pieide, dovremmo farci una sigletta perché ogni giorno ne accade una. Pezzo esilarante, il raccontone, una pagina che ci dice dove continua a vagare il sindaco di Milano, in Monica Guerzoni, e subito l'attacco. Succede di tutto e tutto quando Giuliano Pisapia, con un sorriso enigmatico, lancia Errani alla guida del centrosinistra in cantiere. E poi, caro Vasco, dice Pisapia, citato da Guerzoni, Stasera il leader è stato nominato da tutti i presenti e sei tu. Forse è solo una battuta, ma quell'attimo di silenzio in sala, lo stupore dell'ex commissario alla ricostruzione, dicono la sorpresa e forse anche il timore che l'avvocato milanese stia pensando di sfidarsi. E questa è la cosa interessante. Chi ha chiuso presto in questo dibattito, lo dicevo prima, e dice che è andato tutto bene. Chi è rimasto fino alla fine ha seguito un litigio che è seguito ovviamente al nodo di D'Alema e Capelli su Repubblica a pagina 6, che ha avuto la tenacia e anche la possibilità di chiudere il giornale tardi, ci racconta questa scena surreale di Pisapia che alla fine del dibattito se ne va. Pagina 6, La Repubblica. Su una cosa almeno sono ufficialmente d'accordo, e cioè sull'opportunità di presentare un candidato in ogni collegio. Dico proprio di sì, sostiene l'ex segretario Dem, perché così ci costringono, questo è Bersani. E Pisapia, in questo credo abbiamo piena condivisione. Poi però si finisce a litigare su D'Alema. Di sera, sotto il palco, il duello continua. Pisapia va via veloce, Vasco Errani lo insegue fino al parcheggio per parlargli e, visti da lontano, non sembra un colloquio sereno, ma è una roba da matti. Il nodo, retroscena di questo retroscena, Tommaso Ciriaco, sempre Repubblica, pagina 7, l'ultimatum di Bersani sarebbe subito un nuovo partito o è meglio dividerci? Insomma, state insieme, dividetevi, ma fatelo che non si capisce niente. E cosa succede invece con Grillo? Ha comprato un teatro, lo sapete? Eh sì, sul Corriere a pagina 12 c'è una piccola precisazione: in realtà è un suo amico che l'ha preso in gestione, era stato un annuncio dell'assessore Luca Bergamo, ma è bastato per accendere il retroscena. Ma non è che vuole lasciare la politica? La seconda vita in teatro del leader del Movimento 5 Stelle, a Roma riapre il Flaiano, il possibile ruolo di supervisore a Grillo, e Emilia Costantini a pagina 12 sul Corriere della Sera. Attenzione, perché c'è un'intervista a Bianconi e fa parlare Davigo, accusato di aver suggerito la norma anti-Berlusconi nella legge elettorale, e lui deve difendersi così: non ho mai incontrato Grillo né mai tramato contro Berlusconi. Ce n'è anche per la Lega sul Corriere a pagina 13, un sondaggio agita il Carroccio, spesa inutile per il referendum secondo oltre il 50% degli abitanti della Lombardia. Ma la cosa interessante è la vicenda di Battisti. L'hanno preso che attraversava il confine con $6,000 e €1,300 e lo hanno ovviamente bloccato. Purtroppo l'evasione in Brasile di questo tipo non è un reato, e lui ha detto: sono protetto al diritto all'asilo, ma non ho nessuna paura. Repubblica, pagina 18, dell'estradizione. E meno male. E meno male. Allora, abbiamo detto di Grillo, abbiamo detto della Pisapieide e abbiamo detto della Lega. E beh, ma vogliamo dire qualcosa su Forza Italia? Pezzo sublime di Verderami. La sofferenza, questo è un vero retroscena politico sportivo, la sofferenza di Berlusconi per il Milan di Montella. Montella sbaglia, la squadra non va, il Milan, cruccio segreto di Berlusconi, ovviamente non lo dice, non vuole rovinare la piazza alla nuova gestione, ma è d'accordo con Salvini su qualcosa, è d'accordo con Salvini nel giudizio sul tecnico. Non mi piace, scrive Verderami, come sta facendo giocare la squadra, non c'è un'idea di gioco. Ha detto l'altro giorno in pubblico il segretario della Lega, tifoso rossonero, piegato da 3 sconfitte a sua detta clamorose e imbarazzanti. Ebbene, Berlusconi è d'accordo. Spiegatemi come possono finire in panchina Suso e Bonaventura, che poi sono i due calciatori tecnicamente più dotati. Presidente, ha ragione. Per quanto riguarda la Coppa dei Campioni, contro 2 coppe vinte dalla Juventus, noi ne abbiamo 7, e sopra di noi c'è soltanto il Real Madrid, ma non con le coppe vinte negli ultimi anni, con quelle vinte negli anni precedenti. Con la promessa. La mia è entrata in campo. Ciao Figo, e torniamo. Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segno proprio. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta 24 mattino. E allora lo avevamo previsto, ma oggi il sole 24 ore, come ho annunciato, ci va su. Stanno diventando veramente un problema le nuove regole della BCE sulle banche, che alle banche italiane porrebbero un problema di grande liquidità. Le nuove regole, Davi e Picchio, pagina 3, le nuove regole della BCE pubblicate mercoledì per la consultazione hanno provocato le reazioni allarmate delle imprese e delle banche. Confindustria ha definito la scelta della BCE incomprensibile, irragionevole, spiazza le banche e penalizza i risparmiatori e gli azionisti. Soprattutto, dice sempre Confindustria, restringe i canali di finanziamento alle imprese italiane. L'associazione degli industriali ha annunciato un'azione anche in sede europea per contestare impostazione e tempistica. Duro anche il giudizio dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Senza una correzione ci saranno forti effetti negativi, soprattutto per la pubblica amministrazione. Anche Banca Italia ha auspicato modifiche, chiedendo che le nuove regole non siano applicate ai crediti pregressi. Il fondo di Alessandro Graziani, la stretta della vigilanza bancaria di BCE sui non performing loans, NPL, rischia di penalizzare i conti delle banche italiane e soprattutto di rallentare il flusso del credito alle imprese, condizionando anche la timida ripresa dell'economia. Se la nuova conduzione della Banca Centrale Europea dovesse essere approvata senza modifiche, ovvero mantenendo l'azzeramento nei bilanci bancari dopo 2 anni per i crediti a rischio non garantiti e dopo 7 per quelli garantiti, le conseguenze immediate per il sistema economico sarebbero 2: maggiore cautela nell'erogazione del credito alle imprese e anche alle famiglie e un aumento dei tassi di interesse per prezzare il maggior rischio di credito. Signori, sarà più difficile avere i soldi in questo paese. E il rischio che bisogna denunciare, andiamo a Repubblica sul super ticket, perché era il nodo del contendere, ve lo ricordate, pagina 4, e il nodo del contendere è quello su cui i bersaniani hanno aperto il contenzioso. Ebbene, bella l'inchiesta di Roberto Petrini, la giungla dei super ticket. In molte regioni la sovrattassa tocca i ceti medi, ma c'è anche chi non le applica, cioè scopriamo che in tutto il paese ognuno fa un po' come vuole. Allora in Toscana da 0 a 30 euro, nelle Marche da 0 a 15 euro, in Veneto da 5 a 10 euro, in Emilia Romagna da 0 a 15 euro, in Umbria da 0 a 15 euro, in Piemonte da 0 a 30 euro, in Lombardia da 0 a 30 euro, in Friuli Venezia Giulia da 0 a 20 euro. Ma non era questo uno stato centralista? Domanda. E la tassa sugli anziani, mi interessa questa apertura del giornale, perché dove sta il giornale? Me l'avete fregato. Perché è il nodo, è un nodo difficile, cioè devono aumentare i contributi, però su questa storia ovviamente aumentano anche i costi per tanti che anziani che pagano la badante, pagano la colf, per le famiglie. E poi annunciano De Francesco e la Paolocci, Tiziana, pagina 8 e 9 del giornale, spunta un balzello sui sacchi della spesa. Ecco la tassa, racconta la Paolocci. Sulla spesa, i sacchetti per la frutta diventano a pagamento. Pensa te, buste bio obbligatorie per pesare gli ortaggi da gennaio costeranno 10 centesimi l'una. Mi sembra un po' tantino. Va bene, andiamo alla mitragliata. Questo è il luogo delle notizie vere, ma su cui dovete porvi una domanda. Questo è il luogo dei personaggi, i pazzi che mi piacciono tanto, come Tullio Pironti, che si è arrabbiato, pensate, perché aveva un magazzino con dei libri, il comune che gli ospitava ha deciso di svuotare questo magazzino mettendo tutti i libri al macero per ospitare delle biciclette elettriche. Capita, ovviamente Pironti usufruiva, per un editore che usufruiva di questo beneficio, una di quelle cose che si concordano i comuni, e lui si è messo in strada con la pila dei libri e si è messo a regalarli. Vai Tullio, pagina 24, il Corriere. Allora, laureati a Tirana sulle orme del Trota, ce lo racconta con un'inchiesta Antonio Ricco sulla Verità a pagina 23. È un pezzo molto godibile perché spiega come mai ci sono tutti questi italiani che se ne vanno a Tirana, in Albania. In Albania l'Eldorado degli studenti che non passano i test di medicina. I migliaia si iscrivono a Tirana, racconta Antonio Ricco. Accesso facile, esami in italiano, lauree congiunte con i nostri atenei, niente domande di cultura generale nei 60 quiz di accesso e vai a lei. E dopo un anno si può ritornare in patria. La terra promessa degli aspiranti camici bianchi italiani si trova al di là dell'Adriatico. Là, tra i palazzoni delle periferie di Tirana, nel cuore dell'Albania, sorge l'Università Cattolica e Privata Nostra Signora del Buon Consiglio. È un buon consiglio, non c'è male. Scende in campo Claudio Santamaria. Voi direte come mai, perché è una diatriba che dura da qualche giorno dopo gli insulti molto brutti, volgarissimi a Francesca Barra, la sua compagna. I due sono una famiglia ricomposta, cioè ognuno ha dei figli da precedenti matrimoni, erano stati fotografati da chi e sono stati coperti di insulti sul web e anche addirittura da un funzionario della regione. E allora Francesca Barra, giornalista, scrittrice, donna di carattere lucana, è partita all'attacco e oggi Claudio Santamaria si difende. Hanno offeso i figli di Francesca, sono orgoglioso di essere intervenuto. Ha parlato però anche l'insultatore principe, quello che la Barra aveva detto lavora alla regione, licenziatelo. Lui, Mimmo Leccese, sto leggendo Giusy Fasano sul Corriere, scinde il suo pubblico ruolo dalle sue azioni private. Dice che ha scritto i suoi post fuori dall'orario di lavoro. Qualcuno in cerca di visibilità stanno cercando di montare un caso contro di me. Cioè, uno dice a una persona che ha solo il problema di avere figli di un altro partner, brutta puttana, e loro stanno cercando di farsi pubblicità. E la gente è strana, però, Così come il geniale anziano fermato, questo lo leggo dal Tempo, a Botteghe Oscure. Allora, lo cercavano con la sua Panda, gli hanno ritirato la patente 2 anni fa e dice, va bene, capita. Gli hanno fatto 752 multe, non ne ha pagata neanche una, e hanno scoperto che in un solo giorno questo signore ha accumulato altre contravvenzioni per 4.792 euro, un record. E allora, quando lo hanno fermato, lui si è imbestialito con i vigili e ha detto: andate a prendervela con i delinquenti veri. Ci vediamo fra poco col gattone! Cimici, calpestate senza dignità!